Quindi è una vicenda, quella dei regionali siciliani, comunque la prendiate, del tutto singolare dal mio punto di vista, come è del tutto pazzesco che praticamente non ce ne siamo occupati, se non perché qualcuno ha tentato di dire bisognerebbe per esempio abolire lo statuto speciale siciliano. Io l'ho detto più volte, Francesco Merlo lo ha scritto con la sua mano impareggiabile su Repubblica il 6 ottobre. Capite che stiamo parlando di una regione che ha 1900 quasi dirigenti su 17.000 dipendenti e che però ha assunto altre 4.500 persone nel 2011 con Lombardo, cioè i soliti 27.000 forestali, c'ha 30 dirigenti sopra i 180.000 euro l'anno, 8.000 addetti alla formazione professionale, un bilancio di 27 miliardi di euro sul quale gravano appunto, come vi ho detto, 17 miliardi di crediti inesigibili ma che vengono vantati come attivo patrimoniale. Quindi stiamo parlando di un enorme problema e che è stato riscoperto in questi ultimi giorni solo perché Grillo, intelligentemente devo dire, con la sua traversata nuova ha riattirato l'attenzione. Devo dire che anche su di lui è durata due giorni, perché il suo giro della Sicilia avviene con pochissimi che lo seguono e tutti a dire vabbè, è più o meno un fenomeno da baraccone, come quando arrivasse una commedia d'avanspettacolo, spettacolo, perché in Sicilia poi sono abituati a ben altro. Però di fondo sta avvenendo qualche cosa che non stupisce nessuno,